GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. Ieri giornata di Coppa Italia con tre gare degli ottavi. L'Udinese ha superato la Regina ai rigori. Ai quarti anche la Sampdoria, che batte 2-1 l'Empoli con i gol di Bonazzoli e Fornaroli. Passa poi il Napoli, che vince il derby con la Salernitana 3-1 con autorete iniziale di Peccarisi, poi gol di Pia e Amzic su rigore. Stasera invece sarà campionato con un super anticipo in un inedito giovedì, per lasciare poi lo stadio di Torino alla nazionale di rugby. All'Olimpico c'è Juventus-Genoa, in questo momento insieme al Napoli le squadre più in forma della Serie A. Claudio Ranieri sul grifone che vola. Quest'anno il Genoa ha speso molti soldi, ha preso giocatori di qualità, ha perso Borriello ma ha trovato Milito, per cui sta facendo veramente ottime cose. Genoa è un'ottima squadra, ha dei meccanismi, delle triangolazioni collaudate, è una squadra che sa chiudersi nella propria metà campo e sa ripartire, per cui ha il doppio valore, quello di saper giocare quando deve attaccare a tutto campo e anche quando deve fare le ripartenze, e sa chiudersi molto bene, per cui ci vorrà una grossa prestazione. Non ci sarà alcuna limitazione per i tifosi di Roma e Lazio in vista del derby di domenica. Trasferta di Napoli vietata invece per i tifosi del Cagliari. Ieri il presidente della Lega Antonio Matarrese ha chiesto lo stop alle limitazioni. Tutto va per il meglio, mandiamo una forte richiesta al ministro Maroni perché vengano eliminate restrizioni contro natura nella vendita dei biglietti, ha detto Matarrese. In serata la risposta del Viminale: non c'è ragione per cambiare regole che finora hanno portato buoni risultati. Abbiamo accennato prima al rugby azzurro, che sabato a Torino ruberà la scena al calcio per il match con l'Argentina. Il CT azzurro Nick Mallet ha annunciato grandi cambiamenti rispetto alla squadra che ha perso di misura con l'Australia. Mallet rimette mano alla prima linea, Aghero e Ongaro prendono il posto di Ghiraldini e Perugini. Al centro invece la novità Pratichetti, che sostituisce Canale infortunato. Andrea Masi, il migliore con i Wallabies australiani, nell'intervista del nostro Dario Ricci. Sentiamolo. Proprio non ci aspettavamo una risposta così calorosa, anzi, prima di arrivare a Torino giravano voci che fosse una città fredda, ma invece abbiamo trovato un calore enorme e speriamo di ripagare con una buona prestazione, una prestazione positiva sabato. Dal punto di vista tecnico-tattico, che partita ti aspetti? A differenza dell'Australia, l'Argentina è una squadra che non gioca molto, ma punta tutto sull'occupazione del campo e poi sulla difesa, su metterci all'errore e sfruttare calci di punizione oppure anche i contrattacchi. Sono bravi in contrattacco, però non è come l'Australia, una squadra che gioca molto alla mano. A distanza di qualche giorno, questa sconfitta con l'Australia che sapore ha? Avevamo un'opportunità di fare un grosso passo nella storia del rugby italiano, però ci rendiamo conto che siamo vicini, non siamo così lontani dal rugby di alto livello, e quindi questo qua è già una grande soddisfazione. C'è infine l'Eurolega di basket, per sottolineare l'impresa della Lottomatica Roma, che vince 93-90 sul difficilissimo campo del Tau Vittoria. Roma, alla terza vittoria in quattro partite, conduce dal primo all'ultimo secondo, guidata per mano da un grande Sani Becirovic, 23 punti per lui. Decisivo anche il secondo tempo perfetto di Hudson. Ed è tutto per GR Sport di questa mattina, di nuovo buona giornata.